fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Qual è la peggior mestizia che mi coglie sul far dell'estate? Diciamo che ha una duplice valenza, l'una è collettiva, l'una è totalmente individuale. Quella collettiva naturalmente è nel cominciare a vedere l'euforia serpeggiante dei conti alla rovescia per andare in ferie, non che sia un radicale e bieco umorale negazionista della necessità, anzi della piacevolezza delle ferie, ma mi dà un po' fastidio questi tempi sovrapposti, questo sovrapporsi al tempo che consueto continua tutti i giorni. Il mondo in realtà non fa gran caso al fatto che sia luglio, giugno, agosto, settembre. Progressioni professionali, culturali, le guerre, le linee di potere, le sottotracce ideologiche procedono tutte alla stessa maniera, ma chissà perché si pensa che il tempo di luglio e di agosto siano tempi diversi, quindi si comincia a sovrapporre alle attività consuete le attività oniriche preparatorie a quello che sarà il meraviglioso e fantastico momento della villeggiatura. Lo lascio fare a chi ami fare questo. Il secondo ordine di idee è molto più pratico, molto più individuale, a me molto più legato probabilmente a patologie mie personali, è la battaglia dell'aria condizionata. Io inizio, cominciando a casa mia, continuando nei luoghi di lavoro, nei luoghi di passaggio, a combattere con i fieri avversari dell'aria condizionata, coloro che la spengono al mio passaggio, coloro che alzano la temperatura quando io la abbasso, coloro che tengono le finestre aperte con l'aria condizionata a tutta callara, perché è necessario. Necessariamente dicono che fa male, che fa star male, chi viene il mal di testa, chi viene il mal di gola, chi viene il mal d'ossa e via dicendo. Beh, io faccio parte della generazione che ama la climatizzazione artificiale. Io amo l'aria condizionata più di ogni altra cosa e vivrei in una casa sigillata con la mia climatizzazione personalizzata. Quindi dovendo entrare, non so, in palestra la spengono perché vogliono risparmiare, una puzza di sudore, di piedi terrificanti. A casa mia non entro nei particolari perché sono particolari personali, ma come esco io si spalancano le finestre, si abbassa l'aria condizionata. Anche nei luoghi augusti del lavoro accade la stessa cosa. Ho ancora le tracce dei piedi che ha preceduto in questo studio. Perché? Perché l'aria condizionata viene sempre spenta. Io amo l'aria condizionata, ma oggi vorrei passare attraverso, mi fa un segno in tonti di stringere, attraverso la consueta lettura che noi facciamo dell'attitudine degli italiani ad affrontare questi periodi. Io vi ho dato una mia immediata e espressiva lettura di questi giorni, questi momenti, dei tempi delle vacanze, ma come attraverso gli anni che aveva strumenti artistici e di racconto cinematografico molto più forti, molto più espressivi, molto più intensi, ha raccontato le vacanze degli italiani. Da quanto è lento quel ragazzo. E già si è svegliato te, da stamattina che sta frigge. Ho fatto una scolatura di fritto, siamo quattro persone, poi a mare vi è fame, sa, oh. Io poi tutti questi preparativi non li capisco, le melanzane, le fettine, il cocombero. E poi per andare a Fiumicino. Perché con le melanzane, le fettine, il cocombero dove si va? A Viareggio? Ma che c'entra? Se muoviamo mai, una volta che se muoviamo se poteva andare Anzio. Già te l'ho detto 44 milioni di volte, noi andiamo a Fiumicino perché godiamo della riduzione del 50%. E che sarebbe questa riduzione del 50%? Già te l'ho detto, il commendator Villetti ha preso un accordo con la direzione generale dello stabilimento balneare. Sì, tu mo mi incanti. Di piuttosto che ci va andare perché c'è qualcuno che ti interessa. Ecco, qua siamo ai primordi, siamo agli esordi, siamo agli italiani da pochi anni usciti dalla fase dolorosa della guerra, siamo qua ai primi anni 50, la famiglia Passaguai del 51, la famiglia media tipo dell'Italia capitolina, rappresentata comunque dalla romanità come espressione più alta dell'orgoglio nazionale, comincia a muoversi timidamente ma decisamente nei territori della villeggiatura. La villeggiatura comincia a essere il tempo alternativo, il tempo sovrapponibile, il tempo non dedicato strenuamente al lavoro, alla fatica, ai doveri, all'etica, come era sempre stato nei decenni precedenti. E la famiglia Passaguai, con Aldo Fabrizi, Aveninchi, il piccolo delle Palme, Delle Piane. Delle Piane, scusa, Sansone è qui accanto a me. Il Picco delle Piane comincia a orientarsi trasportando gli stessi oggetti della piacevolezza, quindi le fettine panate, i cocomeri, le tagliatelle con il ragù, dal luogo appunto del quotidiano, che è la città, a Fiumicino, che era il primo luogo delle vacanze, Fiumicino, Ostia, Fregene e via dicendo. Giuseppe Sansone, visto che mi ha aiutato in Carlo delle Piane, cominciamo a definire l'idea della vacanza degli italiani vista attraverso il cinema. Ci sarà un grande excursus, partiamo dalle vacanze fatte nel mare ancora abbastanza pulito alle porte di Roma, poi arriveremo ai grandi paradisi esotici, alle vacanze fatte a Rio dalla coppia dei cinepanettoni più consueta. Sì, questa è la famiglia Passaguai, composta dal corpulento Aldo Fabrizi e da Avelin, che da Pecorino Carlo altrettanto delle Piane, corpulenta, sì certo, la Virago Avelin, che e tutte e due malmenano il povero Pecorino, una commedia slapstick fatta di gag fracassone. Ma qui si profilano già due ossessioni dell'italiano in vacanza, no? Il cibo portato da casa, della piccola borghesia che porta il cibo da casa, queste immani quantità. I fagottari si chiamano, almeno a Roma. E poi un'altra è quella dell'ossessione dello sconto, no? Ci si infligge delle pene terribili per andare in stabilimenti in cui si ha lo sconto perché si conosce qualcuno, il capo ufficio, che... e quindi anche andare in orri di posti però in nome di uno sconto, di una riduzione, che comunque crea compiacimento. Questo è un altro tic tipico, ecco, italiano. Osservare la villeggiatura, poi la villeggiatura era dalla mattina alla sera che non pernottavano, si faceva tutto dentro il casottino dello stabilimento, tutto in cabina si mangiava, si dormiva, ci spogliava, ci si amava, si sognava, ci si scambiava i pareri e impressioni. È l'idea di una grande mestizia, si domanda cosa andassero a fare poi al mare, per stare in mezzo alla sabbia, al sudore, lo sporco, mangiavano male, si sovrapponevano l'un l'altro, non erano abituati a stare al sole, quindi si ustionavano subito. Se vogliamo è un rovesciamento della vita, della quotidianità ripetitiva del lavoro, del periodo del lavoro, è identico, insomma una sorta di catena di montaggio anche lì, tutti ammassati con gli ombrelloni, insomma questo era un po' già il concetto, questi lager colorati che poi saranno Riccione. Però è simbolo del boom, sì. Il boom economico era sottolineato tra le tante immagini simbolo, quella degli ombrelloni del mare, tutte le pubblicità dei primi cornetti, dei gelati. La felicità si realizzava in riva a una spiaggia, in un mare in cui si entrava fino alle caviglie perché nessuno sapeva nuotare ancora, in cui scorreva, si giocava tanto e ci si abbronzava. E si mangiava tanto e non si faceva il bagno subito dopo mangiato, perché soprattutto se mangiavi il fritto di Fabrizi, quelle tonnellate di fritto romano, insomma era un po' difficile anche avvicinarsi con la pancia, con l'addome all'acqua gelida. Allora 800 24 00 24, la domanda questa mattina è circoscritta ai ricordi delle vacanze, vediamo di tracciare una sorta di percorso in quella che è stata l'idea della villeggiatura, della vacanza, del tempo della felicità sovrapponibile al tempo della consuetudine. Questo è il periodo della grande sfumatura, in cui c'è una sorta di dissolvenza incrociata fra il quotidiano, gli ultimi giorni, le ultime settimane, l'ultimo mese di lavoro per qualcuno probabilmente, già infarcito, già irrorato da quella che è l'idea delle vacanze che si faranno. Già le donne cominciano a passare le giornate in terrazzo per abbronzarsi, già vanno nei lettini abbronzanti, già si spalmano le creme, già cominciano a fare le diete disperate dell'ultima settimana, già cominciano a svolazzare i vestimenti leggeri che annunciano i prossimi scoprimenti riva al mare. Gli uomini trattengono il fiato e non fanno altro che pensare quanto costerà loro questo mese di uscita dal mondo. E queste sono le scarpe di gomma, che stingono. Pure i due. Eh sì, sono le scarpe che stingono, il sudore, se stiamo mai fermi. Ma che te rimetti i pedalini? Io mi vergogno. Ma che ti fa il bagno con i pedalini? E io dico che mi sono scordato. E io? Lo sai che famo? Che? Sanna, ma tu fa subito dentro al mare, aspetta. Guarda, Guarda come... Guarda, mo io apro la porta, Tu me venghi di dietro e mi dai uno schiaffo qui. Ma forte però, me lo devi da forte. Ecco, forte. Allora io mi incazzo, mi arrabbio, ti comincio a strillare, ti vengo dietro come per i ratti. Cominciamo ancora, ancora e boom, che se buttiamo dentro al mare di cose. Ecco, così se la mi vieti insieme ancora. Esatto. Ma c'entra allora, Dai, sì. Magari ho schiaffo dodo io, però. No, ho schiaffo dodo io. No, vabbè, muovete, dai. Mica si sono mosse, stanno ancora lì. Ci vorranno fare un applauso. Pronti, apri. Apro, apri. Bambine, ci avete aspettato, Siete proprio fedeli, fedeli e dolci. Ma curi e mortacci. Asia! lo stratagemma miserrimo di Proietti e Citti per buttarsi in acqua e lavarsi i piedi zozzi, naufraga nello sbattimento della fronte su una trave della cabina da parte di uno dei due, che andrà quasi in coma, poi sarà tutto un problema. Ecco, Casotto di Citti è tutto ambientato dentro questa sorta di microcosmo del tempo lieto della trasgressione. Questi due sfigati, poveracci, zozzi, lerci, che vanno a ramazzare due povere strappamutande prese in spiaggia, con le quali dividono il casotto, si spogliano a vicenda. Quando si spogliano gli uomini si accorgono che hanno i piedi zozzi, sì, devono andarsi a lavare in acqua. Quando si spogliano le donne si accorgono che uno dei due aveva preservativi dentro il portafogli, dice: allora non gliela diamo. Sì, c'è tutto l'afrore promiscuo popolare di questo casotto della spiaggia libera di Ostia. Questo è un capolavoro di Sergio Citti del 77, affollato di presenze bizzarre come quella di Jodie Foster, Catherine Deneuve, Paolo Stoppa, e qui si tratta di Proietti, Michele Placido, c'è anche un giovanissimo Michele Placido che fa il tonto, che gli riesce particolarmente bene, e ha questo slip da cui gli esce un testicolo a un certo punto, che è il classico slippino degli anni 60 che ha fatto di maglina. Comunque entrava in acqua, naturalmente diventava ascellare, e c'era la fuoriuscita testicolare, era praticamente gioco forza che succedesse. Però i due personaggi strepitosi sono Proietti e Franco Citti, che sono questi due benzinai, e come se la nudità del mare li riducesse ai bisogni primari. Loro hanno bisogno di sesso da queste due donne che hanno arpionato lungo la strada, loro invece hanno bisogno, le due donne hanno solo voglia di farsi un pranzo magari a spese dei due. Gli contano i soldi nel portafoglio, quanto sì, avranno. E poi c'è questo sputo di Proietti sul piede per togliere il segno del sudore, della fatica. Stiamo sempre a camminare, siamo sempre in piedi, due benzinai, no? Cioè, quindi la fatica e questa unità aristotelica di questo casotto in cui si muove questo microcosmo, perché è tutto accade lì dentro, è geniale, è un film strepitoso scritto da Cerami, che un po' riprende alla Hitchcock Il nodo alla gola, tutto dentro un posto, però racconta il fuoriscena di questa vita balneare, cioè tutto quello che accade nella promiscuità appunto del casotto. Sì, Michele Placido è arpionato dalla famiglia dei genitori di Jodie Foster, che è incinta, devono fargliela sposare. C'è un Paolo Stoppa straordinario. Paolo Stoppa è a quell'aria da usuraio romano, quasi papalino, ma in questo film ci mette tutta la sua credine, la sua furbizia, lo suo stoicismo disincantato romano nel guardare la stupidità di Placido e l'impossibilità di maritare Jodie Foster incinta con Placido, e poi ripiegheranno su Proietti. Jacopo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, iniziamo con lei. Quali sono i ricordi che le ha suscitato queste due pennellate di tristissime villeggiature anni 50? Allora, io ho 65 anni, quindi negli anni 50 una famiglia non assolutamente non ricca, ma insomma che si poteva permettere 20 giorni di pensione a Forte dei Marmi, una pensioncina che io sono andato a ritrovare ma che non ho più trovato. E allora, costume di lanina che quando entravi in acqua ti segnava le cosce perché dava fastidio. Mio padre, una persona dorata, che però di una certa età, che faceva il bagno con una bandana nera perché pelato se no si ustionava, mi hanno comunque insegnato, il bagnino mi ha insegnato a nuotare. E poi la cosa più bella in questa pensione è che, siccome noi avevamo un'azienda agricola, ci portavamo il vino da casa, nonostante ci si potesse permettere comprare una bottiglia. E io ricordo di questa bottiglia di vino sul tavolo della pensione con il segno di quanto se ne consumava. Sì, perché fantastico. Dunque, la cosa triste di queste pensioncine era, qualcosa mi ricordo anch'io, che ognuno aveva a consumo le sue bevande che gli spettavano, quindi c'era il nome sopra con il nome, famiglia e camera. Però siccome nessuno sfidava degli altri, si faceva il segno del consumo, perché se sotto la tacca c'era stato un consumo, qualcuno aveva approfittato ma lì era, se mi permette, il buon senso della mamma. Mio padre faceva il signore, non l'avrebbe mai fatto, ma la mamma, che aveva il buon senso, faceva il segno. Era, ma perché fantastico. Io sempre ricordo comunque una sorta di massacro. Io le poche volte che mi capitava di passare per situazioni del genere non le ricordo mai volentieri, ricordo come qualcosa di imposto. Io volevo starmene a casa mia tranquillo a leggermi i giornalini, e invece no, dovevo sopportare questa sorta di training, di tour de force quotidiano, fatto di cremine spalmate, di merendine insabbiate, di attese di potersi bagnare nell'acqua, di brividi nell'acqua fredda, di sabbia, sudore e ustioni mischiate insieme. Poi i costumi, come cilicio, come appunto ci sottolineava. I costumi erano veramente dei cilici, perché facevano male, rimaneva un segno rosso che da un po' diventava una specie di piaga, capito? Però devo dire che il mio ricordo era più positivo del suo, devo dire, perché in fondo ci si andava volentieri. Io e mia sorella più piccola, quando si partiva, la partenza era fantastica, poi non c'era l'autostrada fra Firenze e Forte dei Marmi, c'era una vecchia autostrada ma non quella di adesso, e quando si arrivava vicino a Viareggio tutti gli anni mio padre diceva: sento odore di mare, ci sia un viaggio che durava 3 ore per cui si vomitava, c'era tutta questa cosa. Ah sì, ecco, c'era il vomito durante il viaggio, era un classico, si vomitava sempre. Le soste per non vomitare, era fantastico. Io devo dire che ho un ricordo abbastanza, comunque piacevole. Devo dire che adesso a 65 anni ci torno regolarmente, insomma, così a Forte dei Marmi dalla mattina alla sera, eccetera, e rivedo i cambiamenti, un po', non dico tristezza perché non tristezza, però vedo come è cambiato il mondo, ecco. Bene, sentiamo Geppina allora. Geppina, buongiorno. Buongiorno. Senta, ascolto volentieri sempre le sue. Ha un bel ricordino di vacanze squallide anche lei? No, squallide no, mi scusi, io ho dei ricordi bellissimi degli anni 50. Ci ho provato. Io abitavo e sono nata a Bagnoli, è una periferia di Napoli dove c'era l'Ilva, la cosiddetta poi petardi tal Sider. Io attraversavo. Beh, un bel posticino per farle. Molto bello, guardi, allora era molto bello. Oggi è diventata la città della scienza, però io li riporterei Bagnoli a quell'epoca dove c'erano sterminati bagni lungo la riva. E noi bambini ci siamo divertiti tantissimo. Una spiaggia meravigliosa, talmente bella era la spiaggia di Bagnoli, che c'era un istituto che curava i bambini poliomielitici. Si chiamava Ravaschieri, e noi attraversavamo attraverso il mare per andare a vedere questi bambini che mettevano le gambe così sotto la sabbia. Li tenevano sabbia. Al sole per guarire. Ecco, e mia mamma a mezzogiorno, il sanatorio mezzo, lo chiamavano, sanatorio. Ci portava questa frittata di spaghetti, perché a Napoli si usa mangiare la frittata di pasta, una cosa, mi scusi, meravigliosa. Guardi, la ritagliava nel negozio perché avevamo la macelleria di fronte, quindi io attraversavo e andavo alla spiaggia. Con la sua bella fetta di frittata di spaghetti. Con la mia bella fetta di frittata, i bambini erano liberi, felici, non c'era tutta questa pedofilia, non avevamo paura di nulla. Oggi non lo so, abbiamo veramente terrore di tutto. Sono brutti tempi oggi. Io allora ero una ragazza felice proprio, guardi. Ci accontentavamo di poco negli anni 50, venivamo dalla. Io ho 70 anni esatti proprio, perché li ho compiuti il 1° maggio del 40, un mese dopo scoppiava la guerra. Ecco, signora, lo so, devo interrompere questo flusso impregnante di felicità, perché devi dire una cosa, no, non so, devo dare la linea sul fatto il cortocircuito gastronomico. Io vengo da Bari, sono queste famiglie che mangiano tonnellate di pasta al forno in riva al mare con queste sedioline di plastica, e quindi c'è questa tuttora questa... Ma tuttora se vai in certe zone del Salento, soprattutto il sabato mattina, inizia la costruzione del gazebo, che portano di tutto, sì, con un camioncino. Barba le precauzioni, poi tonnellate di cibo e poi tutti in acqua. Poi gran parte rimane lì sulla spiaggia quando se ne vanno. Melog 2.0. Ciao Sergio. Cos'è successo? Niente, ho dovuto dirle che era finita. Non poteva mica durare per tutta la stagione. Tu mi capisci, io devo mantenere la mia media. Si devono mettere in testa che questo qui è il mio lavoro. Invece piangono, fanno i drammi, si disperano. In fondo, mica sono di pietra. Vedere soffrire la gente ogni volta mi fa star male, ecco. Ciao Sergio. Dopotutto, ciao. Ciao Enrico. 800 24 00 24, in questa carrellata d'antan delle nostre vacanze, dei tempi che furono, delle nostre, le vostre, le loro, non so quanti poi siano sopravvissuti, quanti ancora abbiano il dono della ragionevolezza di coloro che passarono questi momenti epici, che però fanno parte della nostra storia. Se non ci fosse il cinema a risvegliarli, a tirarli fuori, ne vedremmo soltanto le letture virate, cambiate, completamente travisate, che ne fanno a volte certe fiction televisive, che non hanno nulla della capacità di ricostruire il clima di quei tempi. Bisogna vedere il cinema cinema che è stato fatto, girato, che prendeva a presa diretta quella realtà. Fra i tanti luoghi comuni, appunto, non poteva mancare quella del bagnino seduttore, figura molto legata a tempi passati. Oggi probabilmente non so nemmeno se ci siano ancora i bagnini o se i bagnini si esercitino in questa estenuante ma senz'altro soddisfacente attività, o facciano qualche altra cosa, ci siano ancora i bagnini, ci siano ancora le straniere. Mi è sfuggito quel tipo di realtà. Giuseppe Sansonno, di cosa parlavamo? Questo è l'ombrellone di Risi in fine del 65, che stigmatizza con la solita chirurgica ferocia il forzato del divertimento. Enrico Maria Salerno è questo ingegnere che è costretto ad andare a Riccione al seguito della moglie, e qui si imbatte in Jean Sorel, che è il bello, il gigolò romagnolo tipico da cliché. E qui in questo film, a parte questa emersione dell'archetipo appunto del seduttore che seduce donne sposate che appunto vengono messe lì a pascolare dai mariti durante la vacanza, che stanno ancora in città a lavorare, e lui con le segretarie, con le amanti naturalmente, esatto, e lui si occupa invece delle mogli che sono state messe qui in villeggiature. Siamo nel cliché, ma cliché che coglie poi delle sfumature di reale. Oltre a questo cliché, quindi c'erano dei meccanismi compensatori della vita di coppia integerrima, indissolubile di quegli anni, sono gli anni in cui un'adultera veniva arrestata, però c'erano dei meccanismi compensatori, ammortizzatori sociali. La villeggiatura è un ammortizzatore sociale. Sì, sì, le mogli andavano a lenire il surriscaldamento con i bagnini, e i mariti rimanevano a lenire il surriscaldamento urbano con le segretarie, le colleghe, con le sciantose, non so bene con chi. E poi la famiglia si ricomponeva invece dalla grande animazione che già nel 65 era presente. C'è una scena clamorosa in cui Salerno, che non ha nessun, un uomo serissimo, non ha nessuna voglia di lasciarsi, di abbandonarsi a karaoke, balli che già esistevano allora, e quindi si lascia trascinare da questi trenini, insomma, in questa spiaggia affollatissima di ombrelloni. C'è proprio la catena di montaggio colorata, già questo è la spiaggia di Riccione, già così si manifesta, ecco. Quindi aveva precorso i tempi. Oggi non esiste villaggio vacanze, luogo di villeggiatura, crociera, agriturismo in Sardegna, che non ci sia l'animatore, che non ci sia il karaoke, che non ci siano i balli, il gioco aperitivo e queste stupidaggini. Addirittura nelle orrende pubblicità fanno finta anche di rimpiangere questo quando tornano a casa nella vasca, e dice: ah, che rimpianto che ho di quella crociera in cui sono stati sicuramente estenuati in 28 ore consecutive, insomma, di balli, trenini e fatiche terrificanti. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Ma io devo dire la verità, c'è stato un luogo continuativo di mestizia delle mie vacanze, che è Tirrenia. Tirrenia sarebbe praticamente la spiaggia dei toscani che non si possono permettere di meglio, ma da sempre è stata così. Cioè, se il pisano come sono io, che avesse avuto un po' di quattrini, portava la gente in villeggiatura Marina di Pisa, Tirrenia era già un gradino sotto, anche perché, come tuttora oggi, il posto di mescolanza tra pisani della Suburra e i livornesi, quindi creando un mélange del peggiore orrido provinciale di entrambe. Posso immaginare cosa accadeva a Tirreni? Accadeva quello che sentivo dalla famiglia Passaguai, cioè che, fermo restando che ero un gaffer micidiale, nel senso che ho sempre parlato commentando ad alta voce le cose che accadevano, io mi ricordo distintamente un'estate con un calore infernale, poteva essere il 74, il 75, vidi accostarsi all'altezza del bagno una famiglia dove si vedeva il capofamiglia con questi baffoni, il medaglione cristologico che distingue i livornesi, i quali, come ben si sa, amano gli ori, come dicono loro, e si portava dietro con delle scatole di plastica enormi. Io mi ricordo, dichiarai ad alta voce, rivolto a mio padre: stai a vedere che questi sono livornesi e si sono portati dietro la minestra a brodo. E infatti? Era così, cioè erano livornesi, si erano portati dietro la minestra a brodo, mi dovettero portare via di peso, mi ricordo, per evitare una reazione non esattamente gandiana da parte. Quindi avevano il minestrone, ecco. Il minestrone arriva al mare. Anche perché i livornesi menano notoriamente, i livornesi sono anche abbastanza... Sì, ma poi pisani e livornesi insomma è molto amati, quindi sì. Approfittato questo signore per dare adito al suo livore. Giuseppe. Salve. Ecco qua. Ecco, io ricordo proprio dall'infanzia, no? Io sono telefono da Modena, ma sono un emigrato sardo, allora del Sucisiglesiente. All'epoca nel lungomare di Gonnesa, Fontanamare, in queste zone nella Sardegna si costruivano dei casotti, suppongo fossero anche abusivi all'epoca, parlo poi di 45 anni fa circa. Quelle diciamo che il tetto era fatto di frasche, di asfodello, adesso non so bene di cosa. Ah, era fatto di asce di legno, di tende. Una baraccopoli riva al mare, insomma. Esatto, una baraccopoli, quasi una zona di rom, insomma, si poteva. No, mi fa piacere che andiamo a scavare in quello che in realtà volevo toccare io, lo squallore delle vacanze improvvisate. Esatto, allora mio papà ci portava là all'inizio dell'estate e ci veniva poi a prendere a fine stagione, no? Aveva un'ape 500, ricordo, che ci trasportava della sabbia, voi nel cassone, esatto, dell'ape? Noi eravamo 8 fratelli, ci caricava tutti dentro questo cassone e poi ci copriva con un telone, perché il trasporto veniva fatto durante la notte, perché aveva paura che... Praticamente vi affossava nella sabbia, così cominciavate a abituarvi alla sabbiatura. No, ci metteva due asce per poterci sedere e poi ci trasportava, ci copriva con questo telone, lo legava e ci portava a 20 km di distanza poi dal paesino. Se lo fermava la polizia statale, dovevate grugnire, fare finta che eravate maialini. No, è successo una notte, perché il trasporto veniva effettuato alla mattina presto, verso le 4:30 di 5. No? Una mattina mentre usciva dal paesino ci fermavano i carabinieri. Allora, cosa c'hai dentro il furgone? Chiesero con mio padre. E lui dice: ma c'è un po' di bestiame, di pecore che sto portando giù in campagna, all'ovile. E voi ben lavate. A un certo punto un carabiniere, un ragazzo giovane, ricordo, perché dopo diventò anche, fece il filo a mia sorella, quella più grande, perché messe la mano sul telone, mia sorella si era spostata, prese anche paura, raccontava mio padre, no? E da allora nacque l'amore per sua sorella? A un certo punto i carabinieri scoprirono il cassone per vedere cosa c'era dentro, gli chiesero con mio padre: ma dove sta portando questi ragazzini qua? Gli sto portando al mare, non c'ho altro mezzo e purtroppo devo portarli con questo mezzo qua. Allora ricoprirono tutto e gli hanno detto: mi raccomando, vada piano, che se no, se succede qualcosa qua succede un macello. La mattina il carabiniere, questo ragazzo giovane che era di pattuglia, venne al mare a verificare se eravamo arrivati, se era tutto a posto, e vide sua sorella e se ne invaghì. Esatto, incontrò mia sorella. E per tutta la stagione non ci scrollammo più neanche questo carabiniere, questo ragazzo. E si vede che quando mise la mano sul telone colse un palpito indimenticabile. Marco, lei ha anche una bella storia di vacanza allegra. Marco? Sì, buongiorno. Nulla, io volevo descrivere un attimino lo squallore delle vacanze improvvisate fine anni 60. Quando con il babbo, media famiglia umbra, ci facevamo prestare la macchina da mio zio, il danaroso di famiglia, ma lui ci dava una 500, e andavamo a Marina di Monte Marciano, non so se lei conosce Nioletti, proprio accanto, le spiagge accanto alla raffineria dell'Api. È un bel posticino, certo. Sì. Acqua, petrolio a volontà. Da morire. E allora, fine settimana generalmente erano destinati questi infernali viaggi, e noi due bambini alla fine la sera crollavamo dal sonno, e la mattina dopo i nostri genitori ci facevano credere che durante la sera loro avevano montato una tenda per farci dormire e che in realtà l'avevano smontata quando ancora noi stavamo dormendo. E quindi avete dormivate in macchina? Pensi, Nioletti, che la cosa più bella che ci poteva capitare quella giornata è trovare, c'era un chioschettino vicino alla Monte Catini, un chioschettino al mare, che faceva un cappuccino meraviglioso, perché noi il cappuccino al bar non lo prendevamo mai, chiaramente. E quel cappuccino, mi ricordo, c'ho ancora impresso, da quanto ce l'ho vivo questo ricordo ancora, il numero di targa di questa 500, che per me era E qual era un terrore? È un terrore, perché io ci avevo la mattina male alle gambe, che immagini due adulti e due bambini dormire dentro una 500, quello che poteva essere. Quando andava bene lo zio ci prestava la 112, ma insomma, come spazio Lazio non è che era un granché. Va bene, grazie. Mi fa piacere questi caldi e teneri ricordi di famiglia che sono, ahimè, una, anzi, ahimè, per fortuna, una radice profonda di tante attitudini, di tanti problemi, di tante manchevolezze che ogni volta noi incontriamo nelle pagine di cronaca nera dei giornali, e adesso ne abbiamo contezza delle radici profonde. Melog 2.0. Era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali. È rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo. Oh, vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Andiamo, svelti! Non piano, porca puttana, che si rompe tutto! Come si rompe tutto? Che ha detto? La signora qui fa gentilmente notare che l'aereo ha una certa età e allora di usare una certa... Forza, faccia di culo, avanti, avanti, stronzaccio, non ho tempo da perdere io. Piano, piano, ma ci sono prima io. È proprio venuto il momento delle vacanze anche per me, ho lanciato due volte le informazioni dalla borsa, chiedo scusa, naturalmente erano le informazioni del traffico. Giuseppe Sansson, vedi che la rappresentazione paradossale della vacanza massacro poi affonda le radici su qualcosa di realistico, vissuto. Sì, gli ascoltatori hanno tratteggiato l'idea della vacanza come deportazione che in Pappa e Ciccio trova la sua summa teologica, cioè l'aereo il terrificante Savoia Marchetti che è l'aereo del volo charter che prende Paolo Villaggio per andare in un terrificante villaggio vacanze, trascinato da Rino Banfi, che è il comandante tombale si chiama, ed è bardato come John Belushi all'arme a Hollywood. L'aereo è pieno di sedie da trattoria, c'è questa hostess terrificante che è la sosia di Tina Pica, claudicante come Acab, che dà semi e lupini come pranzo, insomma c'è tutto un viaggio, le ali prese a martellate da Rino Banfi per aggiustare l'aereo prima di partire, il buco che si crea al centro, insomma. Si è molto vicini a un verismo del volo charter. Cioè, quello che ci hanno raccontato i primi 3-4 ascoltatori che hanno telefonato è esattamente un'anticipazione di questo infernale modo di passare le vacanze. La vacanza come imperativo categorico, bisogna andare in vacanza a qualsiasi costo, cioè, non c'è altro. Gaetano. Sì, pronto? Sì, la sto ascoltando. Sì, pronto, buongiorno, chiamo da Catania. Vi volevo raccontare che Catania, la zona balneare, si distingue tra quella dove troviamo la sabbia, quindi la spiaggia, la zona denominata per l'appunto Playa, e quella della Scogliera, nella fattispecie Citrezza, paese citato da Verga. Allora ai tempi si distingueva la Catania bene, diciamo, che frequentava gli scogli, non fosse altro perché aveva imparato a nuotare, perché lì non vi era possibilità alcuna di toccare con i piedi. Invece la rimanente parte della città frequentava la playa e lì naturalmente venivano trasportate tutte le, diciamo, le caratteristiche culinarie della città, quindi la pasta al forno piuttosto che i famosi arancini di Catania, con una gradevole temperatura che andava dai 42 ai 45 gradi. A uno poteva portarseli crudi, si cuocevano da soli. Sì, esattamente, però era bellissimo. Oggi è un po' cambiata perché la zona della playa, adesso ci sono le stazioni balneari di gran lusso, molto belle. Quindi però lei ha un po' di nostalgia della vacanza massacro, della villeggiatura squallida, fa parte comunque del nostro humus storico dal quale non potremo mai staccarci. Quando eravamo così provinciali e così entusiasti di questa possibilità di avere un tempo della fatica e un tempo del relax, che pur di avere un tempo del relax lo allucinavamo in qualcosa che in realtà era molto poco rilassante. Ma a me piaceva molto, le devo dire la verità, e io facevo parte della categoria spiaggia. Quindi lei non andava agli scogli, anche perché chi andava agli scogli doveva mettere quelle terrificanti scarpette di plastica trasparente che lasciano delle vesciche bruttissime. Concetta, Concetta. Sta piangendo? No, sto ridendo io. Ah, sta ridendo. Ma ha bevuto? Cos'è? Qual è il problema? No, ma non so se devo parlare. Sì, deve parlare, sì. Posi un attimo il tavernello e parli. No, non è il tavernello. Da quando è iniziata la buongiorno. Buongiorno. Da quando è iniziata la trasmissione che sto ridendo per le vacanze così. Io sono 67 anni, sono del 42. Lei non ha mai fatto vacanze squallide in vita sua? No, squallide no, ma bellissime, perché ho iniziato ad andare in vacanza che avevo 7-8 anni, per cui non mi rendevo conto se erano squallide o meno, so che erano divertentissime. nel senso che io sono di Sulmona, andavamo al mare a Pescara nel mese di agosto, però non con i miei genitori, ma con due mie zie da sposare. Una era infermiera professionale al Policlinico di Roma, però il rito iniziava già due mesi prima per andare a affittare la casa. Doveva essere vicino al mare, doveva essere vicino al mercato, doveva passare quello del ghiaccio. Sa benissimo lei che non c'era ghiaccio, niente. Cosa succedeva? Finalmente si partiva, ma si andava alla stazione a prendere il treno con la carrozza, con i cavalli, con 10.000 bagagli. Io sono la quinta di sette fratelli. A tutti e sette andavano con le due zie? No, io ero la quinta, ero l'ultima in quel periodo. Quindi erano due zie e cinque bambini praticamente. Solo una sorella, ma era all'università, ma era già la più grande. Poi cosa è successo? Quando si arrivava, si andava al treno, si andava in questa casa, che non siamo mai andati nella stessa casa perché si finiva sempre col bisticciare, con la padrona. Non vi volevano più, chiaro, dopo una volta che eravate passati. Che c'era l'uso della cucina. Il bello era questo, quando si cominciava ad andare sulla spiaggia. Ma voi convivevate col padrone di casa? Ah sì, vivevamo col padrone di casa, per cui il padrone di casa non ci denunciava mai per la tassa di soggiorno. Perché noi quando arrivavamo al mare, se c'era odore di vigna, dovevamo smontare l'ombrellone, lo straio e nasconderlo sotto il casotto, perché non ci facesse la multa. Quando questo non riusciva, la zia ci faceva passare per tutti i nipotini malatici. Vedo che questi ricordi potrebbero nuocerle gravemente alla salute. Non vorrei infierire, pensi alla zia infermiera professionista da sposare, pensi alle sue tristi vacanze e si faccia una bella risata. Ehi lei, dica un po', senta, qui è tutto chiuso, che c'ha il telefono? Sì. Me lo fa piacere? Sì, certo. Mi fa il 1326-624, chiede di Marcella. Grazie, eh. E dica che arrivo subito. Aspetti, e così passiamo a prendere gli altri. Se vuole salire su. Buona idea, che interno è? 4. Senta, gli dia un po' un'occhiata alla macchina, che qui a Ferragosto con tutta sta gente in giro. Con le pinne, il fucile, gli occhiali. Arrivo! Ecco Sansonna, proprio in chiusura, questa è una parte del sorpasso, è l'altro côté, chi rimaneva in città, quello che accadeva un agosto assolato degli anni, fine anni 50 anche in questo caso. Sì, 61, era il negativo delle vacanze, le città deserte come quadri metafisici di De Chirico, e qui c'è Bruno Cortona, Gassman, che trascina in questo viaggio carico di ebbrezza trentignan, che poi si rivelerà fatale, insomma, verso la Versilia, questa Aurelia percorsa a tutto gas in macchina, e quindi l'uscire dalla quotidianità, dallo studio di trentignan e portarsi verso l'ebbrezza alcolica e appunto legata alle vacanze. È interessante proprio in conclusione vedere comunque il fatto positivo è la percezione di una dimensione parallela rispetto a quella del quotidiano, a quella della fatica, a quella dell'impegno, a quella dell'etica. C'era, era allucinata, veniva lambita naturalmente in maniera improvvisata, imparaticcia come erano quegli anni. Il ricordo a posteriori di vacanze squallidissime, terrificanti, di vere e proprie torture, di massacri, ma probabilmente chi ci passava in quel tempo era il primo lambire la possibilità di andare oltre la condanna del quotidiano. Ecco, per la prima volta ci affrancavamo da dover vivere del sudore della nostra fronte. E poi la memoria addolcisce tutto, anche le deportazioni diventano favolistiche, come abbiamo sentito dagli ascoltatori, diventano momenti lieti. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie a Valerio Rocchetti, a Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.